Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Ultima settimana di programmazione per Mr. Kilowatt, che andrà in pensione con la fine di quest'anno e che chiuderà la programmazione questo venerdì. Ci aspetta però, insomma, un'ultima settimana ricca di notizie. Dedicheremo anche due puntate al tema della fusione fredda per raccontarvi come è andata a finire la vicenda di Rossi, ma anche di altre notizie, insomma, che arrivano dal mondo dell'ENR. Stasera invece vogliamo parlarvi di un progetto che si chiama Qubis, che è uno dei primi ad avventurarsi nella sperimentazione concreta di un modello che pure è la naturale conseguenza della diffusione delle rinnovabili, la poligenerazione da rinnovabili. Ci facciamo spiegare tutto da Serena Drigo, che è responsabile dei progetti internazionali del Kyoto Club, che è coinvolto con altre due aziende, Altair e LIP, in questo progetto. Buonasera Drigo. Buonasera. Allora, Drigo, iniziamo da questa parola, da questo termine con cui magari così familiarizziamo. Poligenerazione, che cosa significa e concretamente nel vostro caso come si concretizza? In questo caso, diciamo che la poligenerazione nel nostro caso nasce dall'idea un po' di, diciamo, affrontare uno dei difetti che normalmente viene imputato agli impianti solari termici, che è quello proprio dell'aleatorietà della fonte solare, quindi la necessità di avere una fonte di backup che normalmente viene utilizzata come una fonte tradizionale, come può essere una caldaia a gas o altri tipi di fonti tradizionali. Nel nostro caso abbiamo deciso di testare appunto l'accoppiamento tra il solare termico e l'utilizzo di biomasse, quindi l'utilizzo di caldaie a biomasse, in modo da garantire appunto la continuità della fornitura energetica. Il problema peraltro riguarda il solare termico, ma riguarda molte rinnovabili, no? Riguarda anche il vento, cioè è un problema generale di tutte quelle fonti di energia che appunto non sono continue, non sono prevedibili. Esatto. Sul lungo periodo. Quindi in pratica voi dite: quando c'è il sole noi produciamo il calore che ci serve col sole, quando il sole va via attacchiamo con la biomassa. Esatto. È un po' così. Ecco, dunque, questo calore che produrrete alternativamente con il sole oppure con la biomassa, dove va a finire? Che cosa ve ne fate? Allora, questo calore verrà utilizzato a fini cogenerativi o trigenerativi, che vuol dire che noi collegheremo al nostro impianto una serie di macchine che sono alimentate appunto da questo calore. Allora, la prima macchina sarà un sistema ORC, cioè Organic Rankine Cycle, per produrre energia elettrica. E la seconda è un motore Stirling, sempre ai fini della produzione di energia elettrica, e noi in questo modo valuteremo quale delle due diciamo ha prestazioni migliori accoppiata a questo sistema di produzione di calore. Diciamo che entrambe queste tecnologie sono adatte a produrre energia elettrica a partire da temperature abbastanza basse, no? Hanno questa caratteristica. Sì, rispetto sì. Alle turbine a gas è un'altra roba. Esatto. E poi accoppieremo utilizzeremo questo calore per produrre freddo, quindi per ai fini di raffrescare degli ambienti, mediante l'accoppiamento con una macchina ad assorbimento. Che è un frigorifero particolare che invece di funzionare appunto ad energia elettrica funziona anche questo. Con il calore. Infatti funziona con il calore. Ecco, e di questo calore, dell'energia elettrica e anche del freddo che produrrete nella stagione estiva, che cosa ve ne farete? Perché questo è un altro aspetto molto, insomma, interessante di questo progetto. La cosa interessante di questo progetto appunto è che l'impianto pilota verrà realizzato presso il carcere di Bollate, che è un carcere appunto diciamo di eccellenza, e l'energia che appunto viene ricavata da questo impianto pilota, viene prodotta, verrà ceduta al sistema preesistente nell'istituto penitenziario. Ecco, e quindi l'idea è di installare all'interno dell'area del carcere anche la centrale a biomassa, piuttosto che i pannelli solari, o queste robe staranno fuori? No, il sistema, i collettori solari e la centrale a biomassa saranno installati all'interno del carcere. Ah, proprio all'interno. E gestiti, esatto. L'idea anche di farli gestire da dei detenuti? Ma questo potrebbe essere interessante, visto che comunque l'impianto alla fine rimarrà nel carcere, cioè noi faremo questa sperimentazione e alla fine l'impianto rimarrà lì. Quindi se effettivamente poi ci sono i detenuti che sono in grado appunto di gestirlo, organizzare la manutenzione dell'impianto, potrebbe essere sicuramente interessante. Grazie Serena Drigo, allora in bocca al lupo per questa iniziativa che insomma ha molti risvolti positivi, diciamo, in questo caso anche grazie umani. Grazie a lei, arrivederci. Per questa sera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani, abbiamo un sacco di notizie da darvi, domani una puntata dedicata così ad aggiornarvi su tante novità che arrivano un po' da tutto il mondo, stanno arrivando i primi impianti eolici d'altura, d'alto mare, ma parleremo anche di fotovoltaico ispirato alle foglie di un nuovo biocombustibile. È tutto, buona serata.